ad alta voce. Corrado Guzzanti legge Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov. Seconda puntata. Non c'è alcun motivo per imparare a leggere quando l'odore della carne si sente già così a una versta di distanza. Ciò nonostante, se vivete a Mosca e avete anche solo un po' di cervello in testa, volenti o nolenti, imparerete l'ABC e per di più senza frequentare alcuna scuola. Dei 60.000 cani moscoviti ci sarà giusto un qualche perfetto idiota che non sarà in grado di mettere insieme le lettere che formano la parola salame. Sharik aveva cominciato a imparare dai colori. Appena aveva compiuto 4 mesi, per tutta Mosca avevano appeso delle insegne verde-azzurro con la scritta MSPO, macelleria. Ribadiamo che la cosa era stata di per sé inutile, in quanto la carne la si sentiva comunque, e una volta era capitata una gran confusione. Basandosi sul colore azzurro carico, Sharik, il cui fiuto era stato sopraffatto dal fumo di benzina dei motori, era andato a cacciarsi, invece che in un negozio di carne, in quello di apparecchiature elettriche dei fratelli Golubisnev, in via della macelleria. Lì dentro dei fratelli, il cane aveva assaggiato un bel pezzo di filo elettrico che può essere più sferzante della frusta di un vetturino. Quel preciso momento può essere considerato l'inizio dell'istruzione di Sharik. Ormai sul marciapiede, seduta stante, Sharik cominciò a comprendere che azzurro non sempre significava carne. E stringendo la coda tra le zampe posteriori per il dolore cocente e uggiolando, rammentò che in tutte le macellerie per primo sulla sinistra stava un segno a gambe divaricate, fulvo o dorato, simile a una slitta, una M. In seguito le cose andarono con un successo increscendo. Le mattonelle di ceramica quadrate che rivestivano gli angoli di Mosca stavano sempre e immancabilmente a significare sir, formaggio. Il rubinetto nero da samovar che sormontava la parola stava a indicare l'ex proprietario Chishkin. Montagne di rosso formaggio olandese, di commessi simili a belve che detestavano i cani, la segatura sul pavimento e il ripugnante formaggio maleodorante Backstein. Se suonavano l'armonica, il che era un po' meglio della celeste Aida, e c'era l'odore di salsicce, le prime lettere sui manifesti bianchi si disponevano con estrema facilità a formare la parola turpil, che stava a significare «il turpiloquio è da evitarsi e non bisogna dare mance». Qui a volte scoppiavano risse in crescendo, la gente si pigliava a pugni in faccia, anche se a dire il vero in pochi casi, mentre i cani sempre venivano presi a colpi di tovagliolo oppure a calci. Se nelle vetrine pendevano prosciutti e stantii ed erano esposti dei mandarini, gau gau gastronomia. Se c'erano bottiglie scure con dentro un liquido scadente, viene i vini. Il signore sconosciuto che aveva trascinato il cane fino alla porta del suo lussuoso appartamento situato al piano nobile suonò il campanello e il cane immediatamente sollevò lo sguardo verso la grossa targa nera con lettere dorate che era appesa al lato dell'ampia porta di vetro ondulato di colore rosato. Le prime 3 lettere le mise insieme immediatamente. P-R-O. Pro. Ma poi c'era un'altra lettera, una canaglia panciuta con ben 2 fianchi, che non si sapeva cosa stesse a significare. «Possibile sia proletario?» pensò Sharik stupito. «Non può essere». Alzò il naso verso l'alto, annusò ancora una volta la pelliccia e pensò con convinzione. «No, qui di proletario non c'è nemmeno l'odore. Una parola colta, e Dio sa che cosa significhi». Di là dal vetro rosato s'accese una luce inattesa e gioiosa che rese ancora più cupa la targa nera. La porta si spalancò senza emettere il minimo rumore e una donna giovane e bella con un grembiule bianco e una cuffietta di pizzo fece la sua comparsa dinanzi al cane e al signore. Il primo di loro fu sommerso da un tepore divino e la gonna della donna emanò profumo di mughetto. «Ecco come si vive, lo capisco bene», pensò il cane. «Favorisca, signor Sharik», lo invitò ironicamente il signore, e Sharik con venerazione favorì dimenando la coda. Un'enorme quantità di oggetti ingombrava la ricca anticamera. Subito gli si impresse nella mente lo specchio che arrivava fino al pavimento, che senza indugio aveva riflesso un secondo Sharik, lacero e stremato, e più in alto delle terribili corna di cervo, innumerevoli pellicce, calosce e un tulipano d'opale con dentro una lampadina appeso al soffitto. «Dove è andato a pescarne uno così?» domandava la donna sorridendo, e intanto lo aiutava a togliere la pesante pelliccia di volpe argentata con una sfumatura azzurra. «Padri santi, quanto è tignoso!» «Non dire sciocchezze, dov'è che sarebbe tignoso?» domandò il signore con uno scatto, con aria severa. Una volta levatosi la pelliccia, l'uomo rimase con indosso un abito nero di tessuto inglese e sulla pancia baluginava, lieta e opaca, una catena d'oro. «Aspetta un po', non ti dimenare! Su, sta fermo, sciocchino! Questa non è tigna, ma... Sta fermo, diavolo! È una scottatura! Cos'è, un qualche mascalzone ti ha ustionato, eh? Ma sta un po' tranquillo!» «Il cuoco, quel pezzo da galera del cuoco!» comunicò il cane con occhi dolenti e uggiolò appena. «Zina!» ordinò il signore. «Portalo immediatamente in ambulatorio e dammi il camice!» La donna fischiettò, fece schioccare le dita e il cane, barcollando leggermente, la seguì. Si infilarono entrambi in uno stretto corridoio male illuminato, superarono una porta laccata, giunsero in fondo e quindi voltarono a sinistra, ritrovandosi in una stanza buia che suscitò nel cane un'immediata repulsione per il suo odore sinistro. Il buio schioccò e si tramutò in un giorno abbagliante, colché da ogni parte si levarono bagliori, riflessi e tutto si fece bianco. «Eh no!» ululò il cane mentalmente. «Scusate tanto, non ci sto. Capisco bene che se li porti il diavolo con il loro salame. Mi hanno attirato in un ospedale per cani. Adesso mi costringeranno a ingollare olio di ricino e mi tagliuzzeranno tutto il fianco con dei coltellini, mentre già così com'è non lo si può nemmeno toccare». «Eh no, dove vai?» si mise a gridare colei che veniva chiamata Zina. Il cane si divincolò, scattò come una molla e all'improvviso colpì la porta col fianco sano in modo tale che il colpo si riverberò per tutto l'appartamento. Quindi, balzando all'indietro, girò su se stesso come una trottola lanciata da mano esperta, colché rovesciò sul pavimento un secchio bianco dal quale volarono fuori batuffoli di ovatta. Mentre girava su se stesso, gli svolazzarono attorno pareti coperte di armadi pieni di strumenti luccicanti, prese a saltellare un grembiule bianco e un volto alterato di donna. «Dove vai, diavolo peloso?» gridava Zina disperata. «Il maledetto!» «Dove sarà la scala di servizio?» rifletteva il cane. Si dimenò e, raggomitolandosi, colpì a casaccio il vetro nella speranza che si trattasse di una seconda porta. Un nugolo di schegge si levò con fragore di tuono. Un barattolo panciuto con dentro una schifezza rossastra gli piombò addosso e sull'istante inondò tutto il pavimento e si mise a puzzare. La vera porta si spalancò. «Fermo, animale!» gridò il signore saltando dentro al camice di cui aveva infilato una sola manica e afferrando il cane per le zampe. «Zina, tienilo per la collottola, mascalzone! Padri santi, che razza di cane!» La porta si spalancò ancora di più e nella stanza si precipitò ancora un'altra figura di sesso maschile con il camice. Schiacciando i vetri rotti, questi non si lanciò verso il cane, ma verso l'armadio. Lo aprì e tutta la stanza si colmò di un odore dolce e nauseante. Quindi la figura si rovesciò a pancia in giù sul cane, colché questi con godimento lo azzannò un poco al di sopra dei lacci della scarpa. La figura gemette, ma non si perse d'animo. La schifezza nauseabonda all'improvviso mozzò il respiro al cane e la testa gli cominciò a vorticare. Quindi le zampe cedettero e il cane scivolò via di traverso. «Eccomi servito, è finita!» si ritrovò a fantasticare rotolandosi direttamente sui vetri aguzzi. «Addio, mosca! Non vedrò mai più cischi nei proletari e il salame di Cracovia. Me ne vado in paradiso per tutto quello che come cane ho patito. Fratelli miei, scortichini, che cosa vi ho mai fatto?» E a quel punto si abbatté definitivamente su un fianco e spirò. Thank you. Quando risorse, gli girava leggermente la testa e aveva un lieve senso di nausea nel ventre, mentre era come se il fianco non ci fosse. Il fianco, piacevolmente, non si faceva sentire. Il cane socchiuse il languido occhio destro e a fatica vide che era fasciato stretto su fianchi e pancia. «L'hanno comunque fatto, figli di cagna», pensò confusamente. «Ma l'hanno fatto bene, bisogna riconoscerglielo». «Da Siviglia fino a Granada, nella silente oscurità notturna», intonò sopra di lui una voce distratta e stonata. Il cane si stupì, aprì completamente entrambi gli occhi e a due passi da sé vide una gamba maschile su uno sgabello bianco. Il calzone e la mutanda lunga erano tirati su e il nudo ginocchio giallo era impiastrato di sangue e tintura di iodio. «Santi del cielo», pensò il cane, «a quanto pare sono stato io a morderlo. Opera mia, beh, me le suoneranno». «E che già non le serenate, e che già il cozzare delle spade». «E tu perché, vagabondo, hai morsicato il dottore? Eh? Perché hai rotto il vetro? Eh?» Si mise a guaire lamentoso il cane. «Beh, d'accordo, sei tornato in te. Adesso sta buono, cretino». «Com'è riuscito Filippa Filippovic ad attirare fin qui un cane così nervoso?» domandò una gradevole voce maschile e la mutanda di lana venne tirata verso il basso. Si diffuse odore di tabacco e nell'armadio ci fu un tintinnio di fiale. «Con una carezza! È l'unico mezzo possibile nei rapporti con un essere vivente. Con il terrore non si ottiene mai nulla da un animale, indipendentemente dal grado di evoluzione che questi abbia raggiunto. L'ho affermato, lo affermo e lo affermerò sempre. Fanno male a pensare che il terrore possa essere loro d'aiuto. No signori, no signori, non aiuterà. Qualunque esso sia, bianco, rosso e persino marrone, il terrore paralizza completamente il sistema nervoso. Zina! A questo furfante ho comprato del salame di Cracovia da 1 rublo e 40 copeche. Fammi il piacere di darglielo da mangiare quando gli sarà passata la nausea». I vetri cominciarono a scricchiolare mentre qualcuno li scopava via e una voce di donna osservò con fare civettuolo: «Cracovia, signore santo, ma a questo qui si sarebbero dovuti comprare avanzi in una macelleria. Meglio che il Cracovia me lo mangi io». «Provaci, ti mangio io. È veleno per lo stomaco umano. Sei una ragazza cresciuta, ma come una bambina ti ficcheresti in bocca qualsiasi schifezza. Non osare, ti avverto, né io né il dottor Bormental ci occuperemo di te quando ti farà male la pancia. Chiunque dica che un'altra da queste parti è pari a te». Il trillo lieve di un campanello si spargeva in quel frattempo per l'intero appartamento e in lontananza, in anticamera, si udivano ogni tanto delle voci. Un telefono squillava. Zina scomparve. Filippa Filippovic gettò il mozzicone di papirosa nel secchio, si abbottonò il camice davanti allo specchietto appeso alla parete, si sistemò i baffi vellutati e chiamò il cane. «Beh, niente male, niente male. Andiamo dai nostri pazienti». Il cane si sollevò sulle zampe malferme, barcollò e oscillò, ma in breve si riprese e si accodò alle falde sventolanti di Filippa Filippovic. Il cane passò nuovamente attraverso il corridoio, ma adesso vide che era illuminato a giorno dall'alto da un applique. Quando infine si aprì la porta laccata, il cane entrò con Filippa Filippovic nello studio che lo abbagliò con il suo arredamento. In primo luogo era tutto fiammeggiante di luce. Ardeva sotto al soffitto a stucchi, ardeva sul tavolo, ardeva sulle pareti e sugli armadi di vetro. La luce inondava tutto quel subisso di oggetti dei quali il più intrigante risultava essere un'enorme civetta appollaiata su un ramo appeso alla parete. «Accuccia!» ordinò Filip Filippovic. Si aprì la porta intagliata che stava dall'altra parte della stanza. Entrò quello che era stato azzannato e che adesso in piena luce risultava essere molto bello, giovane, con una barbetta nera appuntita. Porse un foglio e proferì: «Quello di prima». Subito sparì senza far rumore, mentre Filippa Filippovic, dopo aver disteso le falde del camice, sedette dietro un'enorme scrivania e all'improvviso assunse un aspetto insolitamente solenne e imponente. No, questo non è un ospedale. Devo essere andato a finire in qualche altro posto, pensò il cane in preda allo sconcerto. E s'addossò al rabesco del tappeto accanto a un massiccio divano di pelle. E quanto alla civetta, metteremo in chiaro. Corrado Guzzanti ha letto Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.